impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Leonardo Bagnoli e San Montana, la ricetta familiare del gelato, di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi è quella di una delle aziende leader in Italia nel settore della gelateria, ma anche della croissanterie. Si contende il mercato italiano con alcune delle più grandi multinazionali al mondo, come Algida, Unilever e Nestlé. La sua sede ancora oggi è a Empoli, in Toscana, dove è nata quasi 70 anni fa. Tutto inizia alla fine degli anni 40, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando un casellante delle ferrovie, che si chiamava Romeo Bagnoli, decide di cambiare lavoro. Che cosa succede dopo ce lo racconta il nipote di Romeo, Leonardo Bagnoli, oggi amministratore delegato di San Montana. Mio nonno Romeo faceva il casellante delle ferrovie. A un certo punto prese il coraggio a quattro mani e firmò un bel pacco di cambiali, acquisendo un bar nel centro di Empoli, e ci mise a lavorare tutti i suoi figli e figlie. Ne aveva tre femmine e tre maschi, con anche nuore, generi, per cui tutta la famiglia si mise a lavorare all'interno del bar. Il bar si chiamava San Montana perché il latte che serviva per fare il gelato veniva da un piccolo paese vicino a Empoli che si chiama San Montana, che naturalmente esiste ancora oggi. La famiglia si rese conto che non si poteva più stare nel retrobottega del bar, e quindi bisognava per forza trovare uno spazio più grande, e trovarono un piccolo capannone alle porte di Empoli, in via Tosco Romagnolo 56, dove ancora oggi c'è la nostra sede. La gelateria va a gonfie vele e bisogna aumentare la produzione. Quindi i tre figli di Romeo Bagnoli, Renzo, Sergio e Loriano, vanno alla ricerca di macchinari industriali che ancora in Italia non sono in commercio. I tre fratelli presero e andarono a Genova, perché lì c'era un deposito di materiali dismessi, di macchinari vecchi, che si diceva che gli americani avevano lasciato lì i macchinari che usavano per fare il gelato per le loro truppe. I tre fratelli andarono lì, trovarono il signore che era il titolare del deposito, e lui fu molto gentile perché li fece prendere tutti i macchinari, pur essendo loro con pochi soldi. Quindi lui gli disse: prendete tutto quello che avete bisogno e quindi mi pagherete quando ne avrete. Allora tornarono a casa con molto più di quello che avessero sperato, e il figlio mezzano di Romeo, Sergio, era molto capace nel mettere insieme i macchinari, e lui riuscì a mettere insieme queste macchine. Da questo momento l'attività passa da laboratorio artigianale, in cui lavorano circa 10 persone, a una realtà semi-industriale. E i tre figli di Romeo si mettono all'opera per gestire quella che oggi definiremmo una startup del gelato. Grazie al boom economico degli anni 60, l'azienda cresce e arriva agli anni 80, momento della prima svolta. Vicino a Empoli, a Vinci, un signore aveva inventato una nuova tecnologia per fare dei croissant surgelati, pronti per essere tolti dal freezer e essere messi nel forno caldo, e in 20 minuti erano pronti. Tutti gli altri prodotti che venivano fatti in quel momento lì invece avevano bisogno di essere tirati fuori la sera prima e di lievitare tutta la notte, per cui questa innovazione importante attirò la curiosità della famiglia, che a un certo punto entrò nell'azionariato di questa azienda e poi la rilevò completamente. Per cui dal 1980, con il marchio Il Pasticcere, la famiglia entra nel business dei croissant surgelati. San Montana decide di entrare nel canale moderno, vendendo alla grande distribuzione. Altre aziende non lo fanno, intanto le multinazionali sono arrivate in Italia, quindi alla fine degli anni 80 si compete e siamo in pochi, siamo rimasti in 3 o 4, e quindi San Montana progredisce ancora sfruttando questo, diciamo, beneficio degli ordini e delle consegne di due prodotti insieme, gelato e croissanterie. Strategia vincente, che ci permette di entrare nei bar dove magari c'era un altro gelato, ma con la croissanterie potevi mettere il piedino per poter, diciamo, innescare un rapporto umano con l'esercente, per poi poter metterci anche gli altri prodotti. Nel frattempo, il ricambio generazionale avviene in maniera naturale. Figli e nipoti del fondatore occupano le posizioni chiave dell'azienda, che arriva al 2000, anno in cui San Montana entra nei supermercati. con un grande sforzo economico, la famiglia Bagnoli fa un passo significativo nel 2008. Quel momento lì, in quell'anno lì, decide di fare un'acquisizione importante. Sul mercato c'è un'azienda importante da 140 milioni di euro di fatturato, si chiama Gran Milano, ha dentro di sé il marchio Sanson gelato, il marchio Tre Marie sia come prodotti da ricorrenza che come prodotti di croissanterie, ed è il leader della croissanterie. Quindi San Montana fa una roba psicologicamente difficile per una famiglia, no? Quella di fare un'acquisizione importante. Quindi dopo aver sentito tanti fondi, tanti, diciamo, soggetti finanziari che cercano di affiancare San Montana per fare questa operazione, alla fine rifiuta tutti, perché insomma la logica dei finanziari è molto distante dalla logica di una famiglia imprenditoriale, e la famiglia decide di rimettere in gioco dei soldi personali della famiglia, del proprio patrimonio personale, e finanziare questa operazione dell'azienda. E quindi si arriva a un'acquisizione importante, i numeri sono noti, per cui 190 milioni di euro di acquisizione. Da quel momento la crescita, diciamo, è stata non tanto di fatturato, ma quella di affinamento di tutto quello che era stato acquisito, per cui mettere insieme due aziende non è facile, soprattutto per chi lo fa per la prima volta. Quindi il marchio Sanson viene, diciamo, eliminato, tutto passa sotto il marchio San Montana per quanto riguarda il gelato. Invece nella croissanterie si solidifica una posizione importante, perché San Montana unisce al proprio marchio di croissanterie, che è il pasticcere, che era il secondo del mercato, il primo marchio del mercato, che è Tre Marie, e quindi riesce ad avere una posizione molto importante in questo mercato. Grazie anche a questa operazione, dai 220 milioni di euro del 2008, l'azienda chiude il fatturato 2014 con oltre 340 milioni di euro. Oggi dà lavoro a oltre 1000 persone in 4 stabilimenti, 2 in Toscana, 1 a Verona e 1 a Pomezia, nel Lazio. Ma le difficoltà negli ultimi anni non sono mancate. San Montana ha pagato lo scotto di aver fatto la prima acquisizione importante, per cui il momento in cui abbiamo fatto questa acquisizione, mettere insieme due aziende non è stato facile. Non è stato facile anche dal punto di vista dei costi, della gestione dei costi. Abbiamo avuto qualche anno di perdita d'esercizio, abbiamo avuto qualche anno di svalutazione di alcuni asset importanti, per esempio il marchio Sanson, che abbiamo, diciamo, cancellato, per cui era a bilancio una cifra importante, quindi questo ci ha fatto fare una perdita molto rilevante. Poi con la crisi in atto, che è arrivata subito dopo la nostra acquisizione, tutto ciò si è acuito, senza dimenticarsi che in questi ultimi anni il meteo non ci ha certo favorito, perché il gelato si vende prevalentemente d'estate, si vende quando c'è il bel tempo, quando c'è il sole. Tutte queste cose insieme ci hanno sicuramente sfavorito e abbiamo fatto dei bilanci non soddisfacenti, però è stato utile per riassettarci, rimetterci a posto, farci un esame di coscienza sui costi più che sul fatturato, e quindi questo ci fa partire in modo più deciso rispetto a ieri sulle vendite, su affermare la nostra qualità, la nostra missione per fare prodotti italiani, ecco. Il fatturato si concentra quasi totalmente in Italia. I mercati esteri, infatti, contano solo per il 3% e si esporta soprattutto per le grandi catene di supermercati in Germania e Regno Unito. Leonardo Bagnoli oggi guida un'azienda concentrata sul mercato italiano e di dimensione esclusivamente familiare, in previsione di lasciare il testimone alle generazioni future. Siamo un'azienda familiare che è chiaro che non ha le potenzialità economiche per poter andare a fare una campagna comunicazionale per, diciamo, non sapere che come o se ci sarà un ritorno di fatturato, un ritorno di marginalità. Quindi dobbiamo andarci sicuramente con i piedi di piombo, e noi cerchiamo sempre di fare il meglio, non ci poniamo mai limiti e cerchiamo di dare il massimo, perché la prerogativa nostra, e penso di tante aziende familiari, è quella di lavorare per i propri figli, no? Io ho un figlio di 6 anni e mezzo e io tutte le mattine mi sveglio e vado a lavorare perché voglio che lui, quando avrà la mia età, abbia un'azienda migliore di quella che io ho oggi. E quindi per fare questo devo puntare su due cose: la qualità, che è sempre stata la cosa che ci ha caratterizzato, e l'impegno di tutti. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.